L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo alla Green Week, la settimana verde che ogni anno organizza la Direzione Ambiente della Commissione Europea sotto la guida del commissario ormai uscente Janez Patočnik. Quest'anno il tema è stato quello della economia circolare, quella cioè che cerca di sfruttare al massimo le proprie risorse, quella che non estrae ogni volta le risorse dalla terra, ma le recupera e le ricicla, le riutilizza. Una questione ancora più importante e seria in Europa, che è povera appunto di materie prime e di risorse. Tenendo ben presente il tema della Green Week, sono due le iniziative di cui tireremo le fila in questa puntata. Di entrambe abbiamo parlato nel corso dei nostri quotidiani giornali radio europei, nella settimana in onda alle 14. Oggi vedremo come sono andate a finire queste due iniziative. La prima è Let's Clean Up Europe, cioè l'iniziativa organizzata da AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, il cui presidente è l'italiano Roberto Cavallo, e l'altra è la premiazione dei giovani designer ecosostenibili di Generation Awake. Let's Clean Up Europe è stata un'iniziativa di pulizia straordinaria, diciamo così, che si è svolta il 10 maggio in tutta Europa. È stata organizzata nell'ambito della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti ed ha mobilitato migliaia di volontari in tutto il continente. Come dicevamo, ha avuto il coordinamento di AICA, di cui Roberto Cavallo è presidente. Oggi abbiamo presentato la metodologia, che è tutt'altro che banale, perché non è una cosa nuova. Oggi con William Neal del gabinetto di Patočnik, cioè del commissario, ricordavamo come in realtà in Europa già tantissime ONG o autorità locali facevano delle iniziative similari. Non esisteva un coordinamento europeo di tutte queste iniziative, per cui lo sforzo iniziale è stato quello di chiamare attorno ad un tavolo decine e decine di associazioni, di realtà che in qualche modo più o meno scollegato facevano operazioni simili. E questa è già una grande soddisfazione di questo che viene sempre più definito multi-stakeholder involvement, cioè questo coinvolgimento di portatori di interesse diversi tra di loro, con diversi interessi che invece convergono verso una cosa comune. Cioè, in questo caso era puliamo l'Europa, let's clean up Europe. Io ho un po' esordito il mio intervento con una provocazione: bellissimo fare una giornata o una settimana di pulizia, sarebbe meglio non doverla fare, cioè non dover pulire, che è stata la provocazione iniziale e la mia stessa conclusione, cioè speriamo per il futuro di averne sempre meno bisogno. Dal punto di vista così delle conclusioni di questo primo anno, sapendo che con il commissario abbiamo già messo in campo 4 anni di attività, questo era il primo e finiremo, diciamo che l'ultima programmata sarà il 2017. Le prime conclusioni sono state questo importante coinvolgimento di tanti portatori interessi, il coinvolgimento dei privati, e devo dire l'Italia su questo ha fatto anche un po' da pilota e da strada, nel senso che abbiamo un coinvolgimento delle aziende che gestiscono l'igiene urbana, sia quelle private che pubbliche, quindi Federambiente, Fise, Assoambiente, ma anche dei privati che ci garantiscono l'avvio al riciclo di ciò che raccogliamo. Questo lo abbiamo sottolineato oggi, cioè va bene pulire, ma se riusciamo a pulire anche in modo differenziato vuol dire anche recuperare ciò che togliamo dall'ambiente, in senso inteso quello che c'è attorno a noi. Per cui noi in Italia abbiamo avuto il coinvolgimento del CONAI, di tutti i consorzi di filiera e del centro di coordinamento RAE, per cui diciamo di gran parte dei prodotti che purtroppo troviamo in giro. Dal punto di vista numerico, oltre 3.800 azioni in tutta Europa, il campione europeo è stata l'Ungheria, anche perché è stata l'Agenzia Nazionale per i Rifiuti che la esiste a lanciare e coordinare tutta l'iniziativa. L'Italia non si piazza male, è terza, abbiamo quasi 134 azioni su tutta Italia. Diciamo per il futuro ci aspettiamo che la cosa cresca in modo esponenziale, come è stato ed è sempre così per la settimana europea riduzione dei rifiuti. Magari l'Agenzia Nazionale per il Rifiuto Ungherese è un unicum, quindi un po' nel panorama europeo, e ha compiti di che tipo? Ma diciamo il contrario, nel senso che siamo noi in Italia che non abbiamo un piano nazionale per i rifiuti. Questo fu delegato fin dall'origine attraverso il decreto Ronchi, quindi il decreto 22 del 97, alle regioni la pianificazione, che poi a sua volta delegò le province la programmazione. Invece negli altri stati, praticamente tutti gli stati europei, esiste un piano nazionale. Questo devo dire, magari approfitto anche del microfono di Radio 24 per dire, forse su questo bisognerebbe un attimo interrogarsi, perché è vero il federalismo, è vero l'importanza territoriale, ma forse in alcuni casi oggi una pianificazione nazionale potrebbe dare ulteriori stimoli e portarci in Europa con un passo diverso. Forse anche compiere questo salto verso l'economia circolare di cui tanto parliamo, avere uno sguardo nazionale può sicuramente aiutare di più. Esatto, quando i rifiuti erano solo diciamo uno scarto di cui disfarsi, probabilmente un livello nazionale era eccessivamente alto, diciamo così, ancorché, ripeto, Francia, Germania, Austria, Spagna hanno dei piani nazionali. Oggi, in ottica di economia circolare, il punto di osservazione è diverso, perché si tratta di utilizzare al meglio le risorse, tant'è che il precedente ministro ha dato vita al piano nazionale di prevenzione. Ecco, se abbiamo un piano nazionale di prevenzione, quindi dovrebbe abbinarsi a un piano nazionale probabilmente di gestione dei rifiuti, quindi qualcosetta da fare c'è qui, devo dire, nei dibattiti, partendo da una cosa banale come quella di buttare via, cioè dal littering. Il dibattito poi porta invece a questi temi, porta a temi molto più profondi di gestione sostenibile delle risorse che abbiamo, del fatto che l'Europa purtroppo è povera di risorse prime, l'Italia poverissima, e quindi o siamo in grado di usarle al meglio e quindi prevenire la produzione di rifiuti e di riciclarle al meglio e quindi usare materia prima seconda, diciamo, è l'unica via di uscita, una delle poche vie di uscita che abbiamo per competere con le economie emergenti da un lato, le economie solide come quella americana o quella russa. Grazie a Roberto Cavallo, che abbiamo incontrato alla Green Week di Bruxelles. C'è la pausa per il traffico e poi ci ritroviamo. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, seconda news che arriva dalla Green Week di Bruxelles, il principale appuntamento verde della Commissione europea. Anche in questo caso si tratta di un appuntamento di cui parlammo nei nostri GR europei. Sono stati infatti premiati i giovani partecipanti del concorso Generation Awake, dedicato a designers, artisti o artigiani verdi di 4 paesi: Italia, Francia, Bulgaria e Lituania. Generation Awake è una campagna di sensibilizzazione in tema di efficienza delle risorse. Il concorso mirava a promuovere la divulgazione tra giovani creativi under 40 del concetto di valorizzazione e riutilizzo dei materiali, quindi in ultima analisi di economia circolare. Per l'Italia il premio è andato al laboratorio Linfa, gruppo di professionisti con differenti specializzazioni che lavora con giovani progettisti non solo a Roma, dove è di base Linfa, ma anche in giro per l'Italia. Il prossimo workshop, come sentiremo, si svolgerà nelle Marche, a Montemarciano, provincia di Ancona. Del progetto che ha vinto e del laboratorio Linfa abbiamo parlato a Bruxelles con Luigi Cuppone, designer di laboratorio Linfa, ricercatore, professore all'ISIA, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma, e con uno dei suoi collaboratori che sentirete qua e là, Andrea Vitti. La premiazione è stata della collezione, quindi la collezione che noi realizziamo è fatta in legno riutilizzato. In questo caso abbiamo esposto alla Green Week Vassili, che è un progetto di Stefano Di Primio, Stefano Grazioli e Francesco Di Pietro. Loro, insieme al team di Linfa, hanno realizzato questa doppia seduta molto particolare che permette di avere un colloquio fra due persone, di avere un piano a supporto, diciamo, di un computer, di un giornale, anche di per giocare una partita a carte, con una lampada superiore, e diciamo che si adatta perfettamente a essere utilizzato per un luogo pubblico, quindi o un luogo all'aperto o una biblioteca, una libreria. Quindi quello che fa è aiutare ad avere un dialogo, che è qualcosa che oggi manca. Invece in questo caso anche per due persone che non si conoscono, sedendosi su questo oggetto, hanno la possibilità di dialogare e di scoprire una nuova modalità di conversazione. Volendo anche di ignorarsi, però di essere comodi. Possono anche ignorarsi perché la lampada è posizionata in una posizione in mezzo in cui effettivamente scherma un pochino le due persone, quindi se proprio vogliono guardarsi in viso... Pensava al luogo pubblico in cui magari appunto uno può in un luogo pubblico trovarsi con uno sconosciuto, parlarci e non parlarci. Assolutamente, assolutamente può succedere. Vassili ricorda Vassili Kandinsky. Loro hanno dato questo nome proprio perché anche nelle forme un po' taglienti ricordava o aveva la volontà di ricordare insomma qualcuno che era stato precursore di una corrente artistica. Il bello del legno utilizzato è che appunto avendo questa matrice usata esalta quello che è il valore di un legno che andrebbe in discarica ma che invece in realtà può essere tranquillamente riutilizzato perché mantiene perfettamente tutte le sue proprietà tecnologiche e fisiche, quindi è un materiale che viene recuperato prima di diventare in downcycling, quindi in un ciclo che dà un valore inferiore a quel legno, quindi tutti i truciolari che noi ci ritroviamo in giro, diciamo confezionati con della plastica, in realtà nascondono un legno che è stato sottociclato in downcycling, invece questa in upcycling proprio perché il valore di quel materialità è superiore a quello che aveva prima, quindi se prima questo era un pallet per esempio che ha girato il mondo, si è riempito di cemento, di ferro, tutto quanto, a un certo punto andrebbe in discarica perché ha ultimato il suo ciclo d'uso, e invece noi lo recuperiamo attraverso un lavoro manuale che è un lavoro sicuramente artigianale. Li recuperiamo attraverso una piccola filiera che abbiamo a Roma, perché abbiamo il laboratorio a Roma, poi in realtà i workshop li facciamo in tutta Italia, però a Roma abbiamo una filiera di una decina di aziende, anche dei contatti attraverso appunto l'AMA, ad esempio, con le quali riusciamo a recuperare questi materiali, materiale che andrebbe in discarica ma se viene salvato prima che venga in alcuni casi per esempio con appunto le ditte che portano in discarica, se riusciamo a recuperarli prima che arrivino a essere classificati li possiamo recuperare, altrimenti la legge italiana porta a non poterli utilizzare. I prezzi di questi oggetti sono, dice Luigi Cuppone, da falegname, comprendono quindi tempo, manodopera e sono un po' più alti di quelli dei centri commerciali, quindi per intendersi, ma sono comunque adeguati ai manufatti. È molto interessante che siano sostenibili anche le sostanze e gli strumenti per rifinire questi oggetti. Cera mista a olio di lino e terpene d'arancia, olio essenziale che si ricava dalla scorza di arancia, o batuffoli di posidonia, cioè alghe. Sentiamo di nuovo Luigi Cuppone. È l'alternativa all'acquaraggio, diciamo, e quindi è una sostanza sostenibile che non dà impatto, e quindi nel momento in cui noi puliamo il legno, togliamo tutte le impurità, quelle che sono diciamo gli agenti che hanno reso questo oggetto da discarica, li eliminiamo e cerchiamo di utilizzare tutto quello che è rimasto attraverso dei trattamenti che sono biologici e naturali e recuperando anche materiali come per esempio nel caso di quell'alga che sulle spiagge abbonda negli arenili italiani, ma che è un problema per la sua dismissione perché sono tante, e quindi noi cerchiamo di recuperarla perché è un ottimo elemento che per lucidare il mobile, perché è leggermente corrosivo, e noi quindi tiriamo la cera attraverso questi oggetti che alla fine possono essere smaltiti usiamo lo scarto che produce l'alga quando muore e quindi si deposita sugli arenili italiani, lo utilizziamo per tirare la cera, perché poi alla fine quell'oggetto può essere messo nel compost, perché è totalmente organico, come è organico il trattamento che noi facciamo. Questo è un prototipo? Un prototipo che noi abbiamo realizzato, però con delle finiture migliori, perché ovviamente poi quando noi costruiamo in falegnameria, la nostra falegnameria di recupero, questi oggetti, prendiamo ispirazione dagli oggetti fatti dai ragazzi e condividendo con loro la realizzazione, li ridisegniamo, li ricostruiamo in modo che non abbiano per esempio molte viti come ci sono, ma abbiano una razionalizzazione, perché ovviamente questo progetto, nascendo in una settimana, dal progetto alla realizzazione a tutti quelli che sono dei problemi ovvi nel settore dell'evoluzione di un progetto di design. per forza di cose c'è una falegnameria en plein air, non può essere una falegnameria completa come ce l'abbiamo noi, diciamo, fisicamente. E lo realizziamo per luoghi aperti, sostituendo questo elemento centrale attraverso un elemento, praticamente un profilato in ferro, che può essere assicurato alla terra, e quindi l'oggetto non verrebbe più magari spostato o portato via da qualcuno che si innamora dell'oggetto di malintenzionato, ma rimarrebbe... Malintenzionato, certo, perché è bello che venga condivisa da tutti, insomma. Cioè, ma se sperabilmente qua adesso, qua la vedono migliaia di persone, e uno me la ordina, ce la fate? Sicuramente, o? I tempi non sono gli stessi di un'azienda industriale avviata, ma è i tempi che sono i tempi di un artigiano. È bello anche di conseguenza i tempi, cioè non per forza... di avere un tempo seriale o industriale, nel senso che quindi si parla più di rapporto umano anche con il tempo, cioè anche con il fatto del produrre un oggetto e produrlo con le due mani, quindi handmade, ha di certo un valore aggiunto, cioè nel senso che producendo 1000 sedie di plastica, dandole a chiunque, quindi avendo un'offerta di mercato molto ampia, quindi raggiungendo più target possibili, è sicuramente differente dal fare una sedia fatta da 4 persone e messa in un posto dove gli potrà dare del valore. Sicuramente un parco, la natura e la condivisione non sarà, diciamo, cioè sarà una cosa bella accolta, quindi non sarà una cosa... è tutto avrà un... pazienza. Esatto. Questa cosa, quindi avranno, certo, la pazienza ad aspettarla. Pazienza, quindi, chi compra, chi acquisisce... acquisisce anche la pazienza e il tempo del lavoro che tu ci metti per fare una determinata cosa. Effettivamente era quello, cioè è quello che dà valore ai mobili di vecchio artigianato, cioè essendo che ci sono state diverse mani che hanno tolto e rimesso la cera, per fare un esempio, ovviamente il materiale acquisisce quella finitura che molti ricercano nel mobile antico, ma che un mobile che utilizza legno usato e che viene trattato nel modo in cui facciamo noi a cera a mano, ovviamente acquisisce, proprio perché è questo tipo di finitura che dà questa profondità al legno, a confronto ovviamente a quella seriale, industriale, che non può permettersi una ceratura naturale. Volevo sfruttare questa situazione per lanciare il prossimo workshop, che ci sarà a Montemarciano, in provincia di Ancona, e si svolgerà dal 16 al 22 di luglio. Quindi aperto a tutti. A tutti, ovviamente. No, è aperto a tutti. Ovviamente le persone che accogliamo sono quelle che hanno ovviamente un interesse nello sviluppare la progettazione sostenibile. Quanti riescono a partecipare a ogni workshop? Il numero è di 25 al massimo, quindi noi abbiamo pubblicato sul sito del laboratorio www.laboratoriolinfa.com, abbiamo pubblicato il bando qualche mese fa. Sicuramente c'è spazio per tutti, perché diciamo chi propone il progetto migliore poi può partecipare al team che partecipa gratuitamente, vive in tenda, cucinando, condividendo qualsiasi lavorando. Situazione, dormendo, lavorando insieme a noi, e quindi è un'esperienza di vita, non soltanto una esperienza, diciamo, di falegnameria o di comunque avviamento al lavoro. Bene, tutto per questa puntata. Grazie ai nostri ospiti del laboratorio Linfa. Complimenti per il premio che si sono aggiudicati durante la Green Week a Bruxelles. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.